Che abbandono, che sciolto, che abbandono, che delirio. facilissima, per me è facilissima. Voi che tempo loco farò dei giochetti, con te caro bene farò dei giochetti, che a forza di... sol per carità, egli stesso non sa chi sia cui appartenga, può scavalcarvi giù dal vostro cuore. Sia per tollerarlo, ehi, che ciò non segua in presenza mia, ne farei qualche grande stramperia. E vuol dire, affaffate, e vuol dire, affaffate, ma voi sempre taroccate, ma voi sempre taroccate, e vuol dire, affaffate, affaffate, affaffate. Guardi occhi rossi rossi, tu sei tutto in convulsione, tu sei tutto in convulsione, che significa una cosa, che significa una cosa? Su parlate, su parlate, la ragione, lo saper di questo qua, la ragione, lo saper di questo qua. Anzi lei che tira indietro, tira indietro, va benissimo, ma capite, dico, visto in conclusione, siete razze belle, siete razze belle uomini. La smorfiosa, il riservato, smorfiosa, il riservato. Che tu sei del mazzo dato, del mazzo dato. O che del figlio mio mazzo sacro fede come fa. Ma sicuro, padre mio, non c'è male, non c'è male, non c'è male in verità. Abundante mio carico, sicuro, padre mio, anche il diavolo lo fa. Non c'è mai verità. Sì, non c'è mai verità. Ma sicuro, non c'è mai verità. cielo, dal cielo, dal cielo. Tu agli occhi rossi, rossi. Lo sentite? Mi capisco. Tu sei tutto in convulsione. Ma capite? Mi capisco. La smorfiosa, il riservato. La smorfiosa. Riservato. Che così ben mastolato a vedermi gli occhi addosso fanno bene, fanno bene come can. Ma si può fanno bene, sì. Non c'è male in verità, non c'è male in verità. Ma si può fanno bene, non c'è male in verità, ma anche gli occhi. Non c'è male in verità, ma anche gli occhi. Non c'è male in verità. Thank you. povero fedele, siedi almeno. Nascondermi non posso, sono un po' stanco. Diamine, credeva che non finisse mai d'accomodare queste maledette catene. Tanto mi piace il tuo zelo, il tuo cuore, che parti mio genero ho preciso. Senti, lo sento, sì, come sortir da questo nuovo imbarazzo. Oh, qua, figliuoli miei, voi vi amate, è dunque vero, ma ciò non basta per fare un matrimonio fortunato. Vuole inoltre. E poi il voglio per amor va soprattutto. Oh, l'amore coniugale egli deve essere il primiero del sole. E se sta sulla terra un'altra cosa non vende quel prezioso e sarebbe per me, ma a quanto vedo non seguirlo nel posto. Che cosa è questa? La vostra confidenza, e per che mai non possa accompagnarvi nelle segrete prigioni. Tu sai bene, io tengo gli ordini più risoluti, onde nessun s'appressi ai prigioni di Stato. E te potresti aver dubbio di me? Vediamo il dì. Solo durar non posso a mal fatiche, e benché sia severo questo governator, pur converrà che gli permetta di condurti meco nelle segreti carceri. Vede una per altro, ove proibito mi sarà di condurti. E forse quella in cui soggiorna il prigioniere, e qual per volta parlate. Appunto. Io credo che vi sia da gran tempo in rinchiuso. Sono due anni o poco più. Due anni? Ma certo, dir conviene che sia gran delinquente. Oh, che abbia un nemico assai potente. E si sai che sia. Più e più volte me l'ha voluto dire. Ma io che non amo tenere segreti il corpo, non volli sentir niente. Quindi per altro a lungo ancora non mi presterà, e a finirlo gran tempo non starà. Ove! Ma non bizzarro, son dati gli ordini di lasciarlo morir presto di fame. Di fame! Certo, la di lui situazione è assai terribile. Ma non mi compatesti, mio fedele, e ne fali via. E te, ho spirito e vigore. Mi sorprende, figliuolo, un sì gran cuore. Tre sentinelle posto sul terrapieno, 12 uomini all'ingresso del ponte levatoio, notte e giorno. Altrettanti dalla parte del parco, e soprattutto voglio innanzi ciascun che del castello s'appressasse alle mura. Andate! Or dimmi, vi sono novità? No, signore! I dispacci? Eccoli qua! Commissioni o dei rimproveri, più non la finirei se volessi badare a questo e a quello. Ma che vedo, leggiamo, riconoscermi sembra un tal carattere, ma certo che il ministro reso istrutto che tra i prigion di stato a quai voi comandate più vittime vi sono d'arbitrario poter. Parte di mani per andarli gli stesso a visitare e la vostra condotta a esaminare. impero. E se gli scoprisse che in catene quel Florestano qui che i crede morto, quel Florestan che dello stato innanzi siete un dismascherarmi e di cui può ogni costo vendicarmi. Oggi ei deve arrivar, solo un momento, a perder non mi resta. Capitano, ascoltate, sulla torre montate con fedel trombetta. Allor che voi vediate una vettura di lontano, scortata dalle guardie di Siviglia venir, tosto il segnale con la tromba mi date, risponderà la vostra testa, andate. Oh, signora Marcellina. Che saccatore! Si potrebbe dirle quattro sole parole. Or non ho tempo! Ma come potrei fare per farmi amar da te? Thank you. quel comando mi die il governatore. Vien qua fedele, mi bisogna parlarti. E che? Voi mi sembrato sei promosso. Ed ho ragione. Va a preparar due zampe, una lanterna con un lume acceso e una fiasca di vino. Ma quale oggetto? E tu vengo laggiù, scender potrai, a suo tempo e saprai. Oh, caro nostro Rocco, dite, svelate, che posto vi fu? Da quell'incognito di cui parlammo ora, io devo andare. Conviene che fra un'ora ei sia. Ma che mai vuoi tu sapere? Ditelo, a mio conforto, e io verrò fra un'ora. Ehi, sarà morto. Morto! Vale la sentenza! Morto! Nel caso ad esistenza qui per noi dovrei restar. Morto! Morto! Morto! Morto! Nel caso ad esistenza qui per noi dovrei restar. Qui per noi dovrei restar. È il governatore che lo vuol ragionissato. Così che far mio promesso. E invece non ci siamo. Tanto si sono. Tre ore il primo suono. Quando io fatta assaggiare, poi quando già lo sai, dammi tempo di parlare. Sendo dove il grigio dato, non del quale ho parlato. Io mi sento. Mi vistassi una cisterna sotto un carcere gelato. Sì, mi tento. Posto che io sgombrata l'abbia, faccio un segno convenuto. Mascherato un uomo onesto, piede al nome, coppia il mezzo. Io mi sento, e mi do un borsone. Ecco qui la tentazione. Vorrei chiedere a voi certo permesso. chiedi pur se potrò, sicuro esser tu dei, t'appagherò. Signor mio, son 60 anni che già porto sulla coppa. Sento i me, vari malanni, sento in me, fuori malanni, la fatica in me, la coppa in me, la coppa in me, la coppa, e scappa, e scappa. Ma se voi mi permettete di condurre il mio servente con la giubba l'assistente per far quel che voi sapete, ad avve, assai più presto, voi servito resterete, poiché i giorni del ripieno di bravura e fedeltà, di bravura e fedeltà. E con me ti impegni a tanto, lo ripeto, e me ne vanto. E con me ti impegni a tanto, lo ripeto, e me ne vanto. Pria di darti un tal permesso, o veder questo servente. Vengo dove tanti rette. Osservate, eccolo qua. Chi è costui? È un mio fratello, ed a me poverello, qui da me via tanto sempre fatto di pietà. Thank you. che adesso mi sorprende, se lui vuole non si dà. Quando tutti pronto vanno, non gli arrivo a indovinar, non gli arrivo a indovinar, no. ne dico indegno. Che fatica stai a segno. Appuntiremo un poco. Per pazienza sono il fuoco. Stanno tutti troppo avanti. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, volando. Tutti arrivo, tutti arrivo. Thank you. Yeah. Un tiempo dolce all'opra la presta, che un sol momento a perder non ci resta. È impossibile distinguere alcuno dei suoi tratti. Di riposo voi dite questa voce a aditi invece della più funesta oppression, della morte più spietata. Di scoprire potessi sembiando al momento. E sordognor sarete al mio lamento, né pietà sentirete, uomo inumano, del misero innocente florestano. Eccolo, cielo, e adesso. E che vi posso far? Voi vi ingannate nel credermi crudele, e mio dovere gli ordite seguir, fol mio mestiere. Ebben, già che qui debbo terminar la mia sorte, e almeno vi degnate radolcir nell'amaro. E che bravate! Fracidi sono i vestimenti miei per l'inclemente umor di tal soggiorno, e per le membre intorno mi van spargendo un freddo gel di morte. Mostralo, la tua barbaria ora mi rende tutta la forza mia. Già scorse un giorno in cui non ebbi un misero alimento. Se sapeste qual soffro, empio tormento. Yeah. Morte mia, prepara forse. No, non dovettate. provvidenza dappertutto. Sì, c'è una provvidenza. E all'ordine ogni cosa? Non si tratta che d'aprir la cisterna. Son contento. A ritirar quel giovane. Su, presto, allontanati. Chi, io e voi? Non debbo le catene staccar dal prigioniero. Presto, dico, allontanati. Chi, perché tutto resti ignoto al mondo, via che termini il giorno farò perir costoro. Io a levar le catene? No, no, bisogna prima. Il tempo stringe, io morto qui lo spendo sull'istante. Non Thank you. convento. Ma dimmi, è per qual mezzo? Fu coniugare amore, che per la sua mi fece, che era più valente a pensarlo, con cuore tua sciagura, senza averti per tanto, quale vendi al nome di fedele, fedele? E chi ripete un nome sì prezioso? Ah, povero fedele, davvero chiuso in gabbia, che Marcellino, tu, potesti qui penetrare, ti dirò, vedendo senza di te venire il padre mio, sentì che qui ti fosse nata un certo qualche disgrazia. Con arte mi rubai le chiavi, mentre stava apprecchiandosi il ministro a incontrare, che già venuto da Siviglia. Il ministro! Egli, che viene a fare il potetore, di che innocente fosse qui rinchiuso. Ebbene, forte, coraggio! Ma vieni, scoppiamo, oh mio fedele! Ascolta, se vuoi essermi cara più della vita mia, corri al ministro, digli che qui rinchiuso l'innocente, che gli permetta solo di parlare. Subito e volentieri, ma vieni, terrarlo qui dai morti, Cielo a piedi voi quest'arma, lo feci per timore, che contro i sordi vostri poteste, poteste già tentare. Per l'innocente vita di ferro mai staccati, ma no, thank you. contentarsi con dei sei figli amanti, se vuole contentarsi con dei sei figli amanti. Già a chi così va avanti, già a chi così va avanti. Qualunque sia la sposa, non va bene la I'm sorry.